resa conduttiva elettricamente addizionando grafene, oppure può essere resa più resistente, certo, addizionando grafene. E il processo di addizione del materiale è proprio quello un po' il collo di bottiglia attuale. Noi adesso dobbiamo cercare di sviluppare dei processi ottimizzati per l'industria e la manifattura. Superato questo scoglio, noi credo vedremo un impatto del grafene che sarà pervasivo nella vita di tutti i giorni. Ecco, lei ha parlato di quelle che probabilmente saranno le prime applicazioni del grafene, cioè grafene utilizzato come additivo per modificare le proprietà di materiali, ma ci sono una quantità di applicazioni anche nel settore dell'elettronica. Una delle più interessanti potrebbe riguardare le batterie, che sono una chiave di volta nel settore elettrico con l'ingresso delle rinnovabili e che però non è che stanno facendo molti passi avanti. Le batterie è un settore strategico. Noi andiamo in un mondo dove, verso un futuro dove l'immagazzinamento dell'energia, il rilascio dell'energia avrà un ruolo cruciale e pervasivo in molti settori. Ad oggi noi, per far funzionare una macchina elettrica, abbiamo bisogno di un blocco di batterie che pesano diverse decine di chilogrammi. Qual è il sogno che possiamo avere? È utilizzare una batteria della grandezza di quella che usiamo per un cellulare e farci andare una macchina per 100 chilometri. Allora, per fare questo cosa dobbiamo superare? Ecco, lì bisogna entrare un po' nel dettaglio dei materiali. I materiali che adesso usiamo nelle batterie sono materiali che hanno una certa superficie per grammo, per peso. Per esempio la grafite che usiamo nelle batterie a ioni litio, che probabilmente abbiamo nei cellulari, sì, è un materiale che con un grammo riesce a ricoprire 1-2 metri quadrati. Questo fatto qua è estremamente importante, perché più è la superficie, maggiore è la quantità di ioni litio che riusciamo ad appiccicarci sopra. Esatto, e quindi dobbiamo come vestire la grafite con il litio, e quindi esatto, dipende dalla sua superficie. Esatto, col grafene noi abbiamo la possibilità di avere un materiale che per un grammo ha una superficie non di 2 metri quadrati, ma di 2600 metri quadrati. Quindi se riusciamo a sfruttare e ottimizzare questa proprietà, noi abbiamo veramente per la prima volta la possibilità di realizzare questo sogno, cioè di realizzare batterie leggerissime, ma grazie a questa proprietà con delle capacità di accumulo così ampie da far funzionare non un cellulare, ma una macchina. Grazie Vittorio Pellegrini. Allora buon lavoro, mi sembra che ne abbiate parecchio da fare. Grazie mille, buonasera.